Il suo desidera essere malato. Eppure tutti abbiamo bisogno delle nostre malattie. Se deciderete di seguire le mie idee, la vostra salute migliorerà sicuramente. Nessuno desidera essere malato.